sono forse le ansie del tempo che ti chiedo come ti va. Aspetta solo un momento, ora così, no non si sa, no non si sa, io non lo so perché non va. Io dentro un'ansia nel cuore, con la mia testa non ci sto più, soffro troppo il male d'amore, questo dolore mi butta giù, sempre di più, non so perché, non voglio più. Basta un solo momento per intuire che cosa non va. Alla fine questo tormento un rimedio forse ce l'ha. Forse sì, credo di sì, vediamo un po'. Nel veleno che ti consuma, mettine un altro che lo scaccia, si conficca come una lama, tutto il male si legge in faccia, proprio così, penso di sì, credi a me. Amica, facciamo l'amore finché la forza non se ne va. In ogni posto, per molte ore, fin quando il respiro non ce la fa. Credici un po', avanti così, poi si vedrà. È il rimedio più antico del mondo, spezza catene ed ansietà, farlo spesso, andarsi in fondo, non per inerzia, ma volontà, credici ancora, poi vedrai, ti ritroverai.